Esequie alla Leonessa da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Il giorno che morì la principessa o leonessa, accorsero i dolenti a fare al re quei mesti complimenti, che sono sul dolor buona misura nei giorni di sciagura. Fissato il luogo e il dì, volle il leone che i suoi ministri attenti sorvegliasse la lunga processione. Grande il concorso fu. Dentro la grotta che serve al re Leon di cattedrale, ogni animale, ognuno a modo suo, piange intorno al re, e questi è natural pianger per tre. È la corte una casa così fatta, dove la gente è trista, è buona, è matta, a seconda che il re vuole o non vuole. Gente camaleontica che fa la scimmia ad una grande maestà, mille corpi e una man che fa, che detta, come se l'uomo, lo dicono i filosofi, non fosse che una vera macchinetta. Tornando a noi, dirò che a quel gran duolo il cervo solo non pigliò gran parte. La morta, a nominarla come viva, la moglie ed un figliuolo aveva gli strozzato, e se nutriva ruggine in petto, il cervo derelitto era nel suo diritto. Ma non mancò chi corse poi dal principe a dir che il cervo s'era fatto gioco per fin del funerale. La collera d'un principe è fatale, e molto più d'un re come il leone, lo ha detto Salomone, ma quel cervo leggeva così poco. Brutta bestia dei boschi, disse il re, ed osi sghignazzare innanzi a me mentre si piange e mentre siamo in chiesa? Non io l'insulto tuo vendicherò, ma dai lupi sbranare ti farò a placar l'ombra pia da una vile offesa. Prego, ascoltate, o sire, il cervo prese mestamente a dire, passato è il tempo ormai di piangere e far guai, che la regal consorte cinta di fior dal regno della morte or or mi apparve bella in sua gentil favella e dolce riso. Io son beata, disse, e vo tra i santi a discorrer santa in paradiso. Dunque i sospiri cessino ed i pianti, mi conforta il dolore universale e il pianto del mio re, ma dico a te che a un'anima beata è festa il funerale. Udito ciò, la corte ad una voce, miracolo gridava, apoteosi, e il cervo invece d'essere squartato di cavalier si meritò la croce. Se voi lodate d'incensati grandi, se prima vi parevan schizzinosi, diventan tosto morbidi e graziosi, per quanto grosse le sballate loro, digeriran le vostre bombe d'oro. Fine della favola, esegue alla leonessa. Questa registrazione è di dominio pubblico.